Arrossendo, Luna di Primavera si affrettò a sedersi. La nostra cena si sta raffreddando. Improvvisamente si sentiva morire di fame. Lui fece per dire qualcosa, poi si fermò. Lei impugnò le sue bacchette per raccogliere un gambero, poi, ricordando le buone maniere, le rimise rapidamente al loro posto. Guardò timidamente verso di lui. I loro sguardi si incrociarono. Il giovane appariva confuso, rigirandosi distrattamente l'anello che portava al terzo dito della mano destra. Lei sbirciava il cibo con desiderio. Infine, lui sedette davanti a lei, all'altro lato del tavolino. Quei manicaretti avevano un aspetto delizioso. Nessuno dei due si mosse. Oh, lui non si sarebbe deciso mai. In tal caso avrebbe preso lei l'iniziativa. Contemporaneamente raccolsero entrambi le proprie bacchette e cercarono di infilzare lo stesso uovo di quaglia. Ti prego, prendilo tu, disse lei. No, ti prego, sei tu la mia ospite. Davvero? E dopo una pausa. Beh, se insisti. Lei mangiò con piacere, lui piluccava il cibo in silenzio, accumulando sul piatto bocconi che non toccava. Rimase a guardare, mentre lei mangiava quattro frittelle con ripieno d'anatra, cinque gamberi, due gnocchi di pasta, due uova dei 100 anni, tre porzioni di carne pepata, sei funghi ripieni e un'intera porzione di maiali in agrodolce. Mangi sempre così tanto? Chiese lui. Mangi sempre così poco? Chiese lei. Felice promessa, arrossì. Qualcuno bussò alla porta e le serve tornarono per portar via il tavolino. Una corse fuori subito gridando: Una bellezza, una bellezza! I due sposi stavano seduti rigidamente, senza parlare, finché la serva più anziana fece cenno a lui di uscire. Mentre le donne le ritoccavano il rossetto sulle labbra e le raccoglievano una ciocca di capelli con un pettinino, lei si guardò intorno, vedendo la stanza per la prima volta. Era davvero molto più piccola della sala delle udienze nel cortile del Cuore Saggio, oppure era troppo ingombra di mobili? Forse, dopo la nascita del suo primo figlio maschio, sua suocera le avrebbe consentito di apportare qualche piccolo cambiamento. Mentre le altre serve se ne andavano, la più graziosa si fermò sulla soglia per chiamare Felice Promessa. Sposo fortunato, disse con una voce cantilenante, ora potete prendere posto accanto alla sposa. Presto la vostra famiglia e i vostri amici verranno per inaugurare la camera nuziale. Felice Promessa obbedì, borbottando un'altra usanza barbara. Luna di Primavera mormorò: Sarà così terribile? Oh, mi auguro di no. Posso soltanto suggerirti di stare al gioco. Fai tutto quello che ti dicono di fare, altrimenti potrebbero incaponirsi e restare qui per 3 giorni e 3 notti. Prima entrarono i parenti dello sposo. Benché salda rettitudine e gioia di loto fossero entrambi vestiti lussuosamente, lei appariva molto elegante, pensò Luna di Primavera, mentre lui sembrava indossare abiti presi a prestito. Lei era più alta della media, era snella, avvenente e assai più giovane del marito. Lui era massiccio, anche se non grasso, con una barba giallognola e una faccia butterata ma amichevole. Gioia di loto parlò per prima. Bene, bene, non avevo immaginato che fosse così graziosa. E tu, mio onorevole marito? No, oh no, naturalmente, figlio mio, sei fortunato che il tuo brutto padre abbia amici di bell'aspetto. La sua risposta stupì Luna di Primavera. Ciccia le aveva detto che lo zio anziano aveva mandato al Hanlin la foto che le aveva scattato sotto il salice vicino allo stagno dei fedeli compagni. Evidentemente suo suocero non l'aveva mostrata alla moglie. Con un sorriso sulle labbra, ma non nella voce, la suocera disse: Vedremo se i tuoi amici di bell'aspetto hanno delle nipoti obbedienti. Forse sarebbe stato più saggio attendere la nascita del secondo figlio maschio prima di proporle qualche cambiamento riguardo ai mobili, pensò Luna di Primavera. Quando i suoceri ebbero lasciato la stanza, fu circondata dalle donne del clan dei Wu. Di colpo si sentì ridotta a un'anatra spennata da cucinare per la cena. Oh, ma sono tutti tuoi quei capelli? Lasciati guardare i gigli dorati. Un po' magrolina, non credi? Oh no, un po' grassottella, secondo me. Pensi che diventerà una Watu come tante donne del sud? Un cuscino ricamato, forse, decorativo, ma vuoto dentro. Non mi meraviglierei se dovesse pensarci su prima di decidere da quale lato della coppa deve bere. che parlassero pure. Lei era una Chang. Mentre le signore la punzecchiavano e la squadravano, gli uomini se ne stavano in un gruppetto a parte, gli occhi fissi su di lei, e si congratulavano allegramente con felice promessa. Gli ospiti anziani non rimasero a lungo. Appena se ne furono andati, fu il turno degli scapoli, che fecero irruzione urlando. Alcuni si portarono dei tavolini e delle sedie e si misero immediatamente a giocare a Mahjong, mentre altri punzecchiavano, prendevano in giro e scimmiottavano la coppia, secondo la tradizione. Tentarono ripetutamente di far perdere a Luna di Primavera la sua compostezza, di costringerla a ridere, a gridare o a replicare incollerita, ma lei mantenne la calma, sia interiore che esteriore. Le loro battute non erano nulla in confronto a quelle di Ciccia. Quando uno di loro raccontò una storia oscena, Felice Promessa digrignò i denti, ma Luna di Primavera si limitò a sussurrare: «Ricorda quello che mi hai detto. Non vogliamo che restino qui 3 notti e 3 giorni». Prima che un'ora fosse trascorsa, anche i più turbolenti erano troppo imbarazzati per proseguire. Appena il primo accennò ad andarsene, tutti lo seguirono. Un attimo dopo, le serve tornarono per preparare nella sala attigua il letto nuziale, chiuso da tende rosse. Una volta ancora, Felice Promessa aspettò in giardino mentre Luna di Primavera rimaneva seduta, sorridendo fra sé, contenta di lui. Quando le serve se ne furono andate, arrivò Ciccia per svuotare il baule nuziale e aiutare la sposa a cambiarsi. Luna di Primavera approfittò dell'occasione. «Presto, presto, dimmi che cosa hai saputo dalle serve!» Mentre parlava, Ciccia faceva la spola fra il baule e il cassettone. «Tua suocera non ha un bel carattere, cerca di accontentarla sempre!» Luna di Primavera scosse la testa spazientita. «No, no, che cosa hai saputo di lui?» Hanlin è una brava persona, ma ha molta paura di sua moglie. Oh no, no, come sei ottusa? È mio marito che mi interessa. Oh, fece Ciccia esitante. Ma non l'hai visto anche tu? E del resto che importanza ha? Si voltò per disporre i pettini sul tavolino da toilette, ma a Luna di Primavera l'afferrò per una manica. Tu sai qualcosa, devi dirmelo. Ma non è importante. Che cosa? Niente, tanto ora sei già sposata. Ma come posso essere una buona moglie per lui se altri sanno cose che io ignoro? Ciccia si arrese. Le serve dicono che il giovane padrone non desiderava sposarsi. Ma perché? Tu non c'entri, tesoro mio. Dicono che, contagiato dalle idee degli stranieri, non voleva un matrimonio tradizionale, ma voleva sposare qualcuna che avesse conosciuto e scelto lui. E chi era? Nessuno, non esisteva una tale persona. Così la Hanlin ha avuto la meglio. Vieni adesso, devi cambiarti. Luna di Primavera non parlò più, mentre Ciccia le toglieva di dosso i vari strati di seta e broccato rosso e le faceva indossare la lunga veste di seta rossa che metteva in evidenza il suo corpo snello. Ma più pensava a quel che aveva detto Ciccia, meno si preoccupava. Lo zio anziano non l'avrebbe mai sposata a un uomo che non si fosse curato di lei. Quando Ciccia fu soddisfatta di ogni particolare, abbracciò teneramente la ragazza e sussurrò: «Ricorda quel che ti ho detto, non dimenticare la seta bianca!» Luna di Primavera arrossì. Amitava! Era grata alla vecchia serva per averle dato le necessarie spiegazioni, altrimenti avrebbe dovuto ancora spremersi le meningi per capire il discorso di sua madre su questo o quell'albero. Un attimo dopo la sposa se ne stava sola, al centro della camera nuziale. Davanti a lei c'era il letto nuziale di palissandro intagliato con il suo baldacchino sontuosamente ricamato e le tende rosse. Il copriletto di raso rosso era cosparso di petali di rose e di scarpine per neonato di ogni colore. Accanto, su un supporto, c'era il vassoio contenente il quadratino di seta bianca. Con quello avrebbe dovuto fornire il mattino dopo la prova della sua castità e dell'accettazione del suo nuovo ruolo come figlia della casa dei Wu. Udì i passi e si voltò per trovare Felice Promessa in piedi sulla soglia. Le parve che guardasse dappertutto il letto cosparso dei tradizionali simboli di fertilità e il vassoio col quadratino di seta bianca prima di notare lei. Il suo volto era impenetrabile. Rimase immobile a lungo, poi si avvicinò con decisione al supporto e lo rovesciò per terra. Recuperò il quadratino bianco e lo gettò più lontano che poté. Quello ricadde delicatamente sul pavimento ai suoi piedi. Infuriato lo raccolse e cercò in tutti i modi di liberarsene finché si ritrovò ad ansimare per la frustrazione. Dapprima, Luna di Primavera si domandò se fosse in collera con lei. No, pensò poi, non è così. Si comporta come un ragazzino. Ciccia aveva ragione, non voleva sposare una sconosciuta. Né sua madre né Ciccia avevano accennato a una simile eventualità. Ma chissà come, mentre fra di loro il silenzio si prolungava, rotto soltanto dal suo respiro ansimante, lei capì che cosa era giusto fare. Decisa, come era stato lui, si diresse verso il letto, raccolse una scarpina rossa da neonato e la gettò via. Una, poi un'altra e un'altra ancora. Alla fine nessuno dei due ricordò chi avesse riso per primo. Risero e risero fino a crollare esausti sul pavimento. Infine lui chiese: "Perché l'hai fatto? E tu?" L'ho chiesto prima io. Mi sembrava che non ti piacessero le tradizioni. E a te piacciono, piccola sorella? Lei non seppe cosa rispondere. Hai ragione, proseguì lui. Non mi piacciono le tradizioni. Sposare una sconosciuta. Lei protese una mano per sfiorargli le labbra. Fratello maggiore, ormai siamo sposati. Non possiamo disfare ciò che le nostre famiglie hanno fatto. Ma non è detto che restiamo per sempre degli estranei. Anche gli sconosciuti possono arrivare a conoscersi. Ci vuole del tempo. Beh, abbiamo tutta una vita, fratello. Non ti dispiacerà aspettare? Lei arrossì e scosse la testa. Già tante cose nuove erano successe. Poteva aspettare, e con felicità, ora che l'aveva incontrato. Capisci veramente, sorellina? Lo guardò dritto negli occhi. Erano più rotondi dei suoi, gli occhi di un settentrionale, erano diversi da tutti gli altri, gli occhi di suo marito. Ricordò la sua domanda e rispose sì. Per un attimo nessuno dei due parlò o si mosse o respirò. Poi l'incantesimo fu rotto e lei cominciò a frugare fra le scarpine sparpagliate per terra, strisciando qua e là e buttandone una a sinistra e un'altra a destra. Cosa stai facendo? Lei si portò un dito alle labbra. Shhh! Alla fine trovò quel che cercava, il quadratino di seta bianca. Prima che lui potesse fermarla, si morse l'interno della guancia e sputò fuori il sangue per macchiare la seta di rosso. Poi sorrise, nonostante il dolore, e gli buttò il pezzetto di tessuto. Questo sarà il primo di tutti i nostri segreti, marito mio. Era quasi l'alba quando diedero di nuovo una parvenza d'ordine alla camera, ma nessuno dei due ammise di essere stanco. Felice promessa, propose di fare colazione e lei fu d'accordo. Andò ad avvertire le serve che in un baleno arrivarono con il pasto. Quando la tavola fu apparecchiata e le serve se ne furono andate, sedettero di nuovo. Lei mangiava con precauzione, masticando dal lato destro della bocca. Questi pasticcini sono deliziosi. I migliori che abbia mai assaggiato. Ne prese un altro. Sai cucinare? Lei scosse il capo, sospirando tristemente. Ci fu una pausa di silenzio, poi chiese: Ah, credi che Porpor mi sgriderà se il pesce non sarà tutto intero? Ma di cosa parli? Non ti hanno detto niente? No. Per prima cosa io e te dovremo restare soli per 3 giorni e 3 notti. Il mattino dopo io dovrò pulire e cucinare una carpa per la famiglia. Perché? Lei arrossì. Come poteva spiegargli che era una prova della sua abilità e un simbolo delle speranze del clan nella nascita di molti figli maschi? Si strinse nelle spalle. Beh, un'altra tradizione. Aggrottò la fronte e depose i bastoncini. Ne mangerai tanta, anche se sarà cattivissima. Ma perché mai? Oh, ti prego, dirò a Porpor che è una specialità di Sciucciao e che la prima volta non ci si può aspettare che possa essere apprezzata da tutti, ma tu fingerai che ti piaccia. Chiedi una seconda e una terza porzione, nessun altro ne vorrà. Fece una smorfia. Vuoi forse che menta a mia madre? Oh no, non devi dire niente, soltanto mangiare, sorrise. Allora? Lui annuì quasi sorridendo. Immagino che quello sarà il nostro secondo segreto. Risero insieme, ma lei evitava il suo sguardo. Non si era mai sentita così in vita sua. Non era spiacevole, proprio per niente. Riprese a mangiare. Lui la scrutava, i bastoncini sospesi per aria. Sorellina, devi essere abilissima nel ricamo. Oh, quanto può esserlo un orso. Ora so anche che devi essere estremamente modesta. No, Luna di Primavera sospirò di nuovo. No, è la verità, non mi piace cucire. Allora dipingi ventagli, fiori, montagne avvolte nella bruma? Nemmeno quello mi piace. Ma forse perché preferisci il giardinaggio? No, beve il latte di soia. Canti o suoni il luto, forse? Lei depose la sua tazza e chinò il capo. Non sono brava a fare nulla. Lui sgranò gli occhi. Oh, che cosa ho fatto, pensò. Crederà che pensi solo a mangiare? E gli chiese a bruciapelo. E tu? E io che cosa? Sai cucinare, dipingere, fare del giardinaggio, suonare? No. Bene, batté le mani. Abbiamo un mucchio di cose in comune. Lui annuì perplesso. Silenzio. Devo far venire delle tessere? No, non gioco a Mahjong. Oh, fece lui imbarazzato. Giochi a scacchi? Luna di Primavera alzò gli occhi con aria modesta e incontrò il suo sguardo. Io sì, naturalmente. Ah, fece lei portandosi le mani alle tempie. È un gioco così difficile. Non è facile. Hai una scacchiera? Sì? Bene, allora prendila. Tu giochi? Un poco. Lui chiamò le serve perché sparecchiassero e poi andò alla sua scrivania e tirò fuori un antico gioco di scacchi in avorio. Lei rimase a guardarlo mentre sistemava i pezzi. Senza una parola fece la prima mossa. Luna di Primavera finse di non notare il suo disorientamento mentre lei parava al suo attacco. Infine, quando il suo cannone assestò un colpo strategico, lui smise di guardare la scacchiera e, appoggiandosi allo schienale della sedia, con le braccia incrociate sul petto, la scrutò. Lei teneva gli occhi abbassati. Improvvisamente le chiese: Sai leggere? Un poco. Come giochi a scacchi? Un poco? Lei cercò di non reagire, poi nascose la sua risata dietro le mani e annuì. Quando la guardia ebbe intonato l'ora del cane, entrambi sbadigliavano cercando di respingere il sonno. Nessuno dei due voleva essere il primo a suggerire di andare a letto. Sonnecchiavano sulle sedie e all'ora del maiale il battaglio della guardia notturna si svegliò. Li svegliò. Entrambi erano stanchi e irrigiditi. Lui disse: Non possiamo passare ogni notte seduti su una sedia. Non credi che faremmo meglio coricarci? Lei annuì e poi, guardandosi le mani incrociate sul grembo, disse: Posso andare per prima nella stanza? Ti chiamerò io. Ti prego, fa pure con comodo, sorellina. Entrò nella loro camera e si cambiò. Quando fu pronta, arrotolò una trapunta e, salita sul letto, la mise come una barriera fra di loro. Per un attimo giacque immobile, poi, tirando sul copriletto, chiamò: Fratello, puoi entrare. 7. Amato straniero. Nella quinta luna dell'anno del cane 1898, durante il 13° anno del regno di Quang Su, l'imperatore emanò un editto che diceva: Nel promuovere le riforme abbiamo adottato certi metodi europei, perché mentre la Cina e l'Europa sono d'accordo nel ritenere che il primo obiettivo di un buon governo debba essere il benessere del popolo, l'Europa è progredita più di noi in questa direzione, cosicché, introducendo i metodi europei, intendiamo rimediare alle carenze della Cina. Se non conosciamo l'origine della forza degli stranieri e non ce ne appropriamo, non potremo porre riparo alla nostra situazione. La causa della mia angoscia non è compresa appieno dal mio popolo, poiché la reazione deliberatamente falsifica i miei obiettivi, diffondendo voci infondate per turbare la mente degli uomini. Che questo decreto sia esposto nell'atrio anteriore di ogni edificio pubblico dell'impero, così che tutti gli uomini possano leggerlo. Ma dopo 100 giorni di riforma, la concubina passò all'attacco, aiutata dall'ambizioso Yuan Shikai, capo dell'unico esercito moderno della Cina, che tradì il suo imperatore, e dal suo amante Yonglu, comandante anziano dei militari Manciù. Storia cinese. Come ogni mattina, Luna di Primavera indugiava sulla soglia dell'alloggio della suocera più a lungo che poteva, posticipando la sua prova quotidiana. Gioia di Loto, seduta alla sua toilette, era intenta a scegliersi degli orecchini. Un giorno, pensava Luna di Primavera, un giorno i cantastorie canteranno le mie lodi, diventerò famosa come il 25° modello di pietà filiale. Più amata di Tong Jung, che si ridusse a schiava per pagare il funerale di suo padre, e più lodata di Lady Tain, che nutriva la madre sdentata col latte dei suoi seni. Sospirando, entrò in punta di piedi. La stanza non aveva la sobria eleganza che aveva sempre visto dominare nel suo Lao Kia, ma era ingombra di tutte quelle stramberie al cui acquisto Gioia di Loto dedicava il suo tempo. Soprammobili di smalto, giada, avorio e oro coprivano ogni ripiano come i bottoni spaiati sul fondo della scatola da cucito di ciccia. Strati di seta e ricamata drappeggiavano le pareti, nascondendo i dipinti che artisti vi avevano lasciato. Cassettoni di valore erano zeppi di cianfrusaglie, non c'era armonia. Buongiorno, Porpor. Si inchinò. Dove sei stata? Chiese Gioia di Loto, congedando la serva. I suoi occhi non lasciavano lo specchio. Sono sveglia da ore. Sono venuta prima, ma mi hanno informata che non desideravate essere disturbata. È passato del tempo da allora. La tua gente ti ha insegnato a rispettare gli anziani? Luna di primavera chinò il capo. Ti ho fatto una domanda. Sì, così mi è stato insegnato. Mi scuso se vi ho scontentata. Uno degli orecchini cadde di mano alla donna. Luna di primavera si inginocchiò subito per raccoglierlo. Porpor, la perla è rotolata sotto la vostra sedia. Gioia di Loto scostò la sedia dal tavolino della toilette. L'orecchino rimase schiacciato. Guarda che cosa hai combinato! Come pensi di riparare alla tua goffaggine? Luna di primavera non sapeva cosa dire. Ti ho fatto una domanda, devo sempre ripetere una cosa due volte? Vi prego, accettate un paio delle mie perle. E? E scegliete qualsiasi altra cosa vi piaccia. Luna di primavera si tolse le perle dalle orecchie e le offrì alla suocera. Come osi insultarmi così? Non credi che abbia anch'io i miei gioielli? Ho forse l'aria di non potermi comprare un altro insignificante paio di perle? Ah, vi prego di accettare le mie scuse, Porpor. Gioia di Loto si infilò un paio di pendenti di giada alle orecchie. Mentre si studiava il profilo allo specchio, intercettò lo sguardo della nuora e si girò di scatto. Perché mi fissi così? Sono tanto strana? Di nuovo Luna di primavera chinò il capo. Stavo soltanto pensando che siete molto bella, Porpor. La donna sbatté le palpebre, poi si voltò di nuovo verso lo specchio, intingendo il dito nel vaso del belletto e applicandosi con cura la crema sulle labbra. Soddisfatta di se stessa, parlò di nuovo. Non pensare che la bellezza significhi molto nella vita, fu tutto quel che disse. Mentre Luna di primavera aspettava che completasse la sua toilette, qualcuno bussò alla porta. Come ogni giorno, Felice Promessa era venuto a rendere omaggio. Si avvicinò e si inchinò alla madre. Buongiorno, madre mia. Lei rispose al suo saluto e poi fece cenno a Luna di primavera di allontanarsi. Puoi andare. Desidero parlare con mio figlio di cose che non ti riguardano. La nuora si inchinò senza parlare alla suocera e al marito e uscì dalla stanza. Era l'ora in cui le donne della famiglia si riunivano intorno ai mercanti che venivano ogni giorno nel cortile della cucina per vendere verdure, utensili, forcine e filo. Oggi c'era la venditrice di frutta, con ceste di meloni, verde pallido, cachi e pere dorate. Buon mattino, zie! Luna di primavera si inchinò alle mogli dei due fratelli del Hanlin e alla concubina. Occupate a scegliere i frutti, non risposero al suo saluto. Si volse alle due figlie gemelle del Hanlin e della concubina, ragazze della sua età che assomigliavano alla loro madre dalla faccia rotonda con le fossette. Buongiorno, sorelle. Loro, come risposta, annuirono non freddamente ma con riserbo. Credette di vedere l'ombra di un sorriso sulle labbra della più vivace, ma svanì prima che ne fosse sicura. Cosa poteva aspettarsi? Come ultima arrivata, la sposa non aveva diritto ad alcuna considerazione. Finché non fossero trascorsi gli anni, avesse messo al mondo dei figli maschi. Inoltre, ieri era stata indiscreta. La loro vicina, Lin Tai Tai, e le sue nuore erano venute per una visita pomeridiana e lei, invece di chiudersi in un silenzio rispettoso, aveva parlato a sproposito, dicendo che a Shuqiao c'era una maggior varietà di fiori che a Pechino. Avrebbe dovuto imparare a tenere a freno la lingua e cercare di riparare. Questi frutti sono deliziosi, osservò. Non ho mai visto meloni come questi nel sud. Ah! La robusta mercante colse al volo l'occasione. Questa bellissima padrona ha dei buoni occhi. Lei vi dirà che la mia frutta vale il doppio del prezzo che chiedo. Un altro errore. Ah! Avrebbe fatto meglio tacere. Tutte le donne le girarono le spalle e quando quelle cominciarono a discutere sul prezzo, scivolò via silenziosamente fino al piccolo cortile in cui lei e Felice Promessa vivevano con Ciccia e Vecchio Falco. Ciccia era in camera a riporre la biancheria, ma quando vide l'una di primavera lasciò cadere le calze nella cesta e le prese una mano. Cos'è successo? Perché quella faccia? Oh, niente di speciale. L'una di primavera sospirò mentre sedeva sul letto con la serva al suo fianco. È solo che... Oh, ma perché? Non riesco a rendermi gradita a nessuno, soprattutto a lei. Se oggi il tè è troppo caldo, domani sarà troppo freddo. Se faccio rumore nel lasciare la sua stanza, sono troppo furtiva quando ritorno. Se sorrido, sono troppo grande per sorridere. Se non sorrido, ho un brutto carattere. Che cosa devo fare? Niente. Teneramente Ciccia le accarezzò la mano. Non puoi farci niente, giovane padrona. È sempre stato così. Sei una donna ora. Ma non è sempre stato così, ribatté l'una di primavera. Non lo era, Asciu Ciao. Là eri una figlia, non una nuora. Levatasi di nuovo in piedi, Ciccia tirò fuori uno straccio dalla tasca e cominciò a spolverare. È inutile ripensare, Asciu Ciao. Ora questa è la tua casa. Devi cercare di capire. Chissà com'era Wu Tai Tai prima di venire qui come sposa. Credo che sia sempre stata così. Che cosa avrebbe potuto cambiarla? Questi cortili non sono splendidi come i nostri, ma nessuno qui è indigente. E tu stessa mi hai detto che Porpora ha insistito perché Lanlin si prendesse una concubina. Ciccia aprì una finestra per scuotere lo straccio. Giovane padrona, non credi che le focacce fritte fossero particolarmente deliziose questa mattina? Nonostante i suoi sforzi per frenarsi, per poco l'una di primavera non scoppiò a ridere. E quando la serva voleva cambiare argomento, non andava molto per il sottile, ma non gliel'avrebbe fatta passar liscia così facilmente. Vecchia amica, disse, sei stata proprio tu a dirmelo. Ciccia si rimise lo straccio in tasca con un sospiro e dedicò la sua attenzione all'una di primavera. Come sei innocente, creatura mia, vi sono molti modi per mascherare l'amarezza. È vero che è stata Wu Tai Tai a provvedere per la concubina, ma non credi forse che ne avrebbe fatto a meno se avesse ricevuto le attenzioni del Hanlin? Ma Ciccia! La vecchia serva si coprì le orecchie. Basta, non voglio più sentire una parola. Dovrai badare a te stessa oppure ti ritroverai a mal partito. Anche le pareti hanno orecchie, fa attenzione, oppure tua suocera ti manderà via. L'una di primavera ebbe un'esclamazione soffocata. Non aveva mai pensato a simile eventualità. Non capisci che tu sei per lei come aceto nel tè, giovane padrona? La voce di Ciccia improvvisamente si raddolcì. Abbi pazienza, in fondo devi soltanto aspettare. Presto sarà tutto diverso, diventeranno tutti più gentili. Si accarezzò la pancia e uscì un ampio sorriso. Presto gli darai un figlio maschio. Le lacrime salirono agli occhi di Luna di Primavera. Fortunatamente in quel momento Ciccia era distratta da uno scarafaggio sotto la libreria e non se ne accorse. La serva non doveva sospettare nulla. Costringendosi alla calma, l'una di primavera si alzò e disse in tono formale: Sei saggia, cercherò di seguire il tuo consiglio. Ora devo andare, ho alcune cose da fare. Lentamente entrò nel cortile e si sedette sulla panchina accanto alla tavola di pietra per gli scacchi che Felice Promessa aveva installato per loro. L'aria d'autunno era profumata di castagne arrostite e lei respirava lentamente osservando il cavallo Tang nel vano di una finestra lì vicino, dissolversi pian piano nell'ombra. Di tutto quel che aveva portato con sé da Shuichao, il dono del giovane zio era il preferito di Felice Promessa. Non doveva mai più lamentarsi, mai più dare a Gioia di Loto motivo per mandarla via, perché sarebbe morta se non avesse rivisto mai più suo marito. Al pensiero di lui non poté fare a meno di sorridere. Nessuno era sincero come lui. Sia che si complimentasse con Vecchio Falco per l'anatra di Pechino, o parlasse di politica estera con suo padre, o le insegnasse l'inglese, si impegnava con tutti. Una volta ogni tanto lei sbagliava deliberatamente la pronuncia di una parola solo per sentirlo ridere. Aveva cercato di scrivere una poesia su quel che provava, per spiegare il modo in cui lui entrava in una stanza e sussurrava buonanotte. Ma non aveva trovato le parole. Sapeva soltanto che il cuore le fremeva di piacere e di orgoglio ogni qualvolta era con lui, e anche quando erano separati accadeva la stessa cosa. Di tanto in tanto però la spaventava. Il silenzio cadeva su di lui come un sudario, mentre se ne stava seduto a fissare la lanterna di seta dipinta che pendeva dalle travi della biblioteca, rigirandosi al dito l'anello che, aveva saputo poi, proveniva dalla sua scuola in America. Dapprima lei aveva interrotto queste sue fantasticherie. Lui rispondeva sempre alle sue domande, cercando pazientemente di spiegare perché era tanto preoccupato. Sembrava turbarlo la politica e le riforme del giovane imperatore. Pensavo che tu la provassi, fratello. Certo, ma temo che con ogni dito l'imperatore si attiri nuovi e più potenti nemici. Ma lui è l'imperatore. E tuttavia, è vulnerabile, soprattutto se i suoi nemici convincono la vedova che le riforme non sono nel suo interesse. Alla società di riforma circolavano voci di assassini, colpi di Stato, intervento straniero. Ansiosi come erano di convertire l'imperatore, i riformatori avevano sottovalutato la burocrazia e, spiegò, i burocrati per loro natura considerano il cambiamento, soprattutto il cambiamento improvviso, una minaccia mortale. Se una qualsiasi di queste voci è vera, io temo per il nostro paese e forse persino per le nostre vite. Il nostro successo con l'imperatore può significare la nostra rovina. Come potete prevedere una simile cosa? Per forza è sempre stato così. Negli ultimi tempi se ne stava seduta in silenzio mentre lui rifletteva, desiderando di poter soffrire al suo posto, desiderando che lui sapesse quanto era felice di essergli vicina. La voce della serva di Gioia di Loto la faceva sobbalzare. Giovane padrona, venite subito, siete desiderata. Porpor. Sempre Porpor, la suocera. Subito l'una di primavera si affrettava per servire la suocera.